tacchi, alcol e utopia, la dottrina di Socrates. Vi segnalo questo articolo a pagina 49 sul Corriere della Sera, o anche il racconto di Paolo Manzo per La Stampa, pagina 45, addio al dottore dai piedi buoni, in campo segnò per la democrazia, la storia di Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, per tutti solo Socrates, che è scomparso dopo che ha avuto vari ricoveri, era finito nell'alcolismo a 57 anni l'altro ieri a San Paolo. E poi cosa devo titolare? Devo citare la Gazzetta dello Sport. Eccolo qua, la Juve ha vinto, marchisio di qualità. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, con Peter Bescapè che mi invita a leggere la classifica, mi diceva, del campionato di calcio, ma partendo dal basso. Non ho capito perché volesse partire dal basso. Ah, forse perché trovava nei primi posti l'Inter, è per quello, vabbè. 24 mattino. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua, sono le 8:21, allora il giorno dopo la manovra sacrifici, la manovra, il decreto salva per salvare l'Italia, così dice il Premier Monti, parleremo soprattutto di lotta all'evasione fiscale più avanti, ma prima voglio salutare, vorrei avere qualche parere, magari si può dire controcorrente come scelta, da Tony Negri, che saluto. Tony Negri, buongiorno. Scrittore, filosofo, tra i fondatori di Leader Operaio, anche in passato condannato, no? Per insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Senta Negri, le vorrei chiedere intanto che ne pensa di questo decreto Salva Italia. Ha sentito che i sindacati parlano di rischio di lotta sociale, cioè secondo lei c'è questo rischio? La situazione italiana sia stata abbastanza ormai così messa sotto controllo da questo punto di vista. Ci saranno indubbiamente forti lotte sindacali, eccetera, ma tutte lotte credo saranno molto contenute in questa prima fase della crisi, o meglio in questa fase della crisi, perché non è la prima né sarà l'ultima. La crisi continuerà, andrà ancora più a fondo, evidentemente nessuno è convinto che questa manovra di Monti sia manovra definitiva e decisiva. Senta, ma quando lei le sente parlare e legge di governo dei poteri forti, governo dei banchieri, che pensa? Ma penso che sia esattamente questo, cioè una restaurazione assolutamente pesante, non solo a livello italiano ma a livello europeo, di un governo di una destra liberale. Di una destra liberale che evidentemente ha una preoccupazione non stupida di controllo sociale, di blocco delle lotte sociali, di consenso relativo attraverso quella che è però la proposizione di un ricatto fortissimo su base non del tutto democratica, diciamo, non del tutto costituzionale, se vuole meglio dire. Non del tutto costituzionale per che cosa? Per il fatto che è caduto un governo e non si è andato a votare, o non del tutto costituzionale tout court? Cioè voglio dire che non è... Ma non del tutto costituzionale tout court, credo. Ma questo dipende anche dal fatto che la Costituzione italiana è assai invecchiata. Quindi voglio dire, non ha una legittimità questo governo, secondo lei? Questo governo ha una legittimità che è una legittimità d'eccezione. Il concetto di eccezione non credo sia contenuto nella normatività costituzionale normale. È un governo di eccezione, è quello che i romani chiamavano una dittatura temporanea. Una dittatura temporanea. E senta, il ricatto a cui faceva riferimento qual era? Cioè, che ricatto? È quello della rovina, è quello del disastro, è quello della catastrofe. È appunto il tema stesso del salvataggio, è il tema del Titanic, se vuole, ecco. Cioè o con noi oppure affonda tutta la barca. Sì, certo. Dovete digerire. Questo non è detto semplicemente a livello italiano, ma è detto ormai a livello europeo, e secondo me dentro un tipo di crisi capitalista che è molto più profondo di quello del 29, che è molto più profondo di tutti gli altri tipi di crisi che il capitalismo ha conosciuto. Cioè si tratta di una crisi effettivamente di estinzione o esaurimento della capacità capitalistica. Qui però forse la democraticità c'entra poco, cioè il fatto che effettivamente in questa situazione di crisi o si fanno le riforme o si fa qualcosa o si fa uno shock oppure è l'ultima chance, voglio dire. Vedi, io non so, insomma io, mio maestro Bobbio, ecco, talmente celebrato così normalmente, avrebbe chiamato questo un veramente un governo non direttamente e non pienamente costituzionale. Non pienamente costituzionale. Senta, Negri, vogliamo parlare, noi l'abbiamo chiamata anche visto che si parla tanto di costi della politica, di tagli ai costi della politica, di questa vicenda che la riguarda anche, visto che lei fu eletto nelle file dei radicali, è rimasto in Parlamento quanti giorni? Pochi? Perché poi... Non è quanti giorni sono rimasto in Parlamento, il problema è quanti giorni sono rimasto in carcere prima di entrare in Parlamento. Io sono rimasto in carcere 4 anni e mezzo senza processo. Per questo i radicali poi la candidarono, la fecero eleggere, fu eletto in Parlamento. E credo 150.000 italiani mi votarono. Sì, però lei rimase pochi giorni perché si dette la fuga in Francia poi all'istare. Io non mi diede la fuga. Andò in Francia. A me fu tolta l'immunità. E quindi dovevo tornare in carcere e ho preferito andare in Francia, dopodiché sono rientrato in Italia, ho compiuto fino in fondo i giorni della mia pena. Una parte l'ha passata in Francia. In ogni caso lei per questo prende un vitalizio oggi dal Parlamento, di quanto a quanto ammonta? Ho circa 2.000 euro. 2.000 euro netti, però lei rimase pochi giorni, questo è sicuramente un fatto che possiamo dire. Tecnicamente... dal punto di vista retributivo, io le dico sinceramente che io ritengo questo un risarcimento anzi molto meno grande di quanto mi dovrebbero, perché il risarcimento è per gli anni di galera ingiusti che ho fatto, anni di galera nei quali lei deve considerare anche che ero stato considerato appunto non solo il promotore di un'insurrezione contro lo Stato, ma l'uccisore di Moro e di 17 altri omicidi. Però le dice ingiusto, però ci fu una condanna, non per questi reati. Ma certamente non per questo. Non per una questo, condanna però assolutamente pretestuosa, compiuta dopo la mia fuga, dopo il fatto che dopo io me ne andai, e fu una condanna che io appunto pagai tranquillamente, senza problema. Senta, ma questi 2.000 euro li considera quindi un risarcimento, anzi è poco rispetto a quello che dovremmo noi come Stato, noi italiani, beh, visto che glielo paghiamo noi italiani. Ai temi di cui stiamo parlando, cioè i problemi dei costi della politica, io ritengo che la politica indubbiamente costi, anche al di là diciamo della stretta legalità. Mi sembra che sia un tema molto reazionario, questo non lo dico io, lo dicono gli antichi greci, no? Quello di considerare che la politica non debba essere pagata in qualche modo. La politica deve essere pagata perché altrimenti resta solo nelle mani dei ricchi. Magari completamente reazionario un discorso del genere. No, pagata sì, magari qualcuno dice non strapagata, voglio dire. Ma sono perfettamente d'accordo anch'io che ci siano eccessi, ma che la politica deve essere giustamente, realmente retribuita, mi sembra un lavoro, non so, insomma, sarebbe come dire che i giornalisti o i giudici o tutto un altro tipo di funzioni non devono essere giustamente pagate a livello della loro capacità. Ripeto, pagate sì, lei comunque giudica questo vitalizio non solo giusto ma anzi poco rispetto a quello che dovrebbe prendere come risarcimento. Non so che è poco, dico semplicemente che sai, io sono un uomo di... veramente io sono stato buttato fuori dall'università in quel caso ed ero professore ordinario già da una decina d'anni ed ero un bravo e utile servitore dello Stato e niente di più, quindi questo è per me evidentemente diventa una condizione di sopravvivenza. Punto e basta, cosa vuole che le dica? No, ma questo è il suo parere. lei ha detto prima, mi sembra che abbia detto, è anche poco rispetto al risarcimento, lo considero un risarcimento, è anche poco rispetto a quello che mi è successo, capisce? È stata una cosa 25 anni praticamente di dolorosa persecuzione. Però ne ha passati molti in Francia. A proposito di Francia, le chiedo questo. Cesare Battisti, un paio di giorni fa, proprio dalla Francia, ha detto ci vorrebbe un'amnistia per chiudere, una riconciliazione col popolo italiano. Non ne sembra volgare anche come posizione da una persona condannata a 4 omicidi e non ha mai fatto un giorno di carcere? Ma guardi, il caso Battisti è un caso che è stato creato evidentemente dalla stampa italiana. La questione dell'amnistia è una cosa molto più seria, è stata dibattuta ampiamente durante gli anni 90, era quasi arrivata al termine attraverso la bicamerale e non è stata attuata, credo che ormai siamo fuori tempi massimi, tuttavia le dico, non si faccia travolgere dalle stupidaggini di Battisti nel considerare un problema che è molto più profondo di quello di come lui l'ha presentato. Questo sì, però perché è creata dalla stampa italiana il caso Battisti? Cioè ci sono 4 condanne non scontate. No, non è che sia proprio per caso dalla stampa italiana, semmai è stato creato da una Francia di intellettuali francesi che vede in maniera molto poetica la situazione italiana. Ma niente di più. Niente di più. Nel caso questa amnistia le dice siamo fuori tempi massimi. Siamo fuori tempi massimi, ma sarebbe, evidentemente sarebbe stata a suo tempo estremamente importante. Noi abbiamo lottato enormemente dai carceri, da fuori dal carcere, perché questa amnistia fosse riconosciuta. Beh, a lui farebbe comodo ancora oggi. Buona parte della crisi della classe politica italiana dipenda dalla maniera nella quale è stato risolto il problema degli anni 70. La classe politica italiana si è trovata, 30.000 persone in carcere, 6.000 condannate, e sono ed era praticamente il meglio della gioventù italiana. Il meglio, dici? Sì. Beh, alcuni magari avevano compiuto delle reti. Ma c'è stato successo quello che è successo, ma da ambo le parti, parliamoci che c'è stata una destra, una sinistra, c'è stata una polizia, c'è stato uno Stato che è andato molto al di là di quelle che sono le linee dell'intervento, eccetera. In ogni caso non dobbiamo dare troppa importanza a ciò che dice Cesare Battisti, questo per concludere. Ma cosa vuol dire? Cesare Battisti se ne sta in Brasile, punto, basta, è molto lontano dall'Italia, penso da molto tempo, da troppo tempo. Dovrebbe rientrare, secondo lei? Cioè lei lo vedrebbe meglio in carcere in Italia? Ma io non lo vedrei da nessuna parte, cosa vuol dire? Io al carcere non lo auguro neppure a Berlusconi, capisci? Beh, cosa c'entra? Ma Battisti è stato condannato per 4 omicidi, da scontare. Ma è stato condannato per 4 omicidi? Penso che sarebbe meglio se stesse zitto. Non posso mica mettermi a posto della sua coscienza. No, no, questo sì. Però in Brasile, stia lì in Brasile, ma zitto. Intanto la ringrazio, Tony Negri, per essere stato con noi. Grazie, arrivederci. Tony Negri, ci fermiamo per la pubblicità in meteo e poi parliamo di evasione fiscale. Che ne pensate? La cura Monti, anche sul tema della tracciabilità del denaro contante. Basta pagare in contanti, per qualcuno è un modo per dire oh, così con le carte di credito si sa tutto, per qualcun altro è certo uno stato di polizia fiscale o di persecuzione da parte del fisco. Tra poco. 24 mattino. Eccoci qua, allora, le 8:36 minuti. Nella manovra del Premier Monti, del governo Monti, c'è anche questo abbassamento della soglia di tracciabilità. Da 2005 si scende a 1.000 euro. Vale a dire, per contrastare l'uso del denaro contante. La tracciabilità oltre 1.000 euro, sopra i pagamenti sopra 1.000 euro devono essere fatti con assegni, carte di credito, qualcosa che rimanga. Tutto questo nell'ottica per contrastare l'evasione fiscale. Qualcuno ipotizzava addirittura di proporre una misura più drastica, fino a 300 euro, sotto i 300 euro si può pagare in contanti, sopra i 300 euro tutto deve essere tracciabile. Carta di credito, si dice in America si paga anche il caffè con la carta di credito. Di questo tema di lotta all'evasione fiscale, di tracciabilità, ne vogliamo parlare con Massimo Fini, scrittore, giornalista, intellettuale. Buongiorno e ben ritrovato, Fini. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Guardi che tra l'altro abbiamo un audio tra poco che la riguarda, glielo preannuncio. Saluto anche Roberto Ippolito, ben ritrovato, autore di saggi sull'evasione fiscale, il più famoso è Evasori. Buongiorno Ippolito, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Allora, Massimo Fini, sa chi è Johannes Büchler o chi si cela? L'ha letto sul Corriere della Sera che da qualche tempo è apparsa questa firma un po' strana? In massimo non leggo i giornali. Vabbè, Johannes Büchler è lo pseudonimo. Johannes Büchler era una sorta di fuorilegge della Renania della fine Settecento, che combatté contro i francesi, fu impiccato alla fine, una sorta di Robin Hood tedesco. No? Johannes Büchler è questa firma che è apparsa sul Corriere da qualche tempo, dietro cui si cela chissà chi. Che diciamo, Cirino Pomicino. No, che Cirino Pomicino? No, una vicenda ben più misteriosa di Cirino Pomicino, che insomma fustiga un po' tutti coloro che sono contro, che dicono sempre se e come, no? Quando si parla di evasione fiscale, è una persona rigorosa, insomma. Johannes Büchler, noi l'abbiamo contattata, è una persona che non si vuole rivelare, ma ci ha mandato un audio, un commento che vorrei proporre a lei, a tutti gli ascoltatori, a lei soprattutto, Massimo Fini, che un paio di giorni fa, qualche giorno fa, sul Fatto Quotidiano aveva scritto questa frase molto secca sul denaro: io il mio denaro ho diritto di metterlo dove mi garba, anche di ficcarmelo nel culo se così mi piace. Allora, senta un po', sentite Johannes Büchler, che ci ha mandato un suo commento, la voce è un po' distorta perché vuole proteggere la propria vera identità. Salve Alessandro, sono Johannes Büchler. Nonostante le forti resistenze di questo paese, il dibattito sulla lotta all'evasione prosegue. È già qualcosa. Prendo per esempio la tracciabilità del contante. Cosa c'è di così devastante, se questo può servire a fare in modo che qualcuno bari un po' di meno? Per carità, come non essere d'accordo con chi scrive «Io il mio denaro ho il diritto di metterlo dove mi garba». Buckler la pensa esattamente come lui, o meglio, la frase incompleta. Buckler l'avrebbe scritta in questo modo: «Io il mio denaro ho il diritto di metterlo dove mi garba, dopo aver pagato le tasse». Così suonava meglio, non crede? In pratica, dobbiamo cominciare a essere un paese normale. E in un paese normale le tasse si pagano. Perché le leggi prima si rispettano e poi si cambiano. In un paese normale il classico alibi delle troppe tasse a fronte di servizi inadeguati non regge. Perché anche la giustizia in Italia non funziona. Ma nessuno si sente autorizzato a farsi giustizia da solo. In un paese normale chi non paga le tasse non è invidiato, o peggio ancora ammirato, ma punito. Però è anche vero che in un paese normale probabilmente uno come Buckler non esisterebbe nemmeno. Un caro saluto a tutti e buon lavoro. Ah, dimenticavo, smettiamola di ammirare i furbi disonesti, almeno quello. Allora, questo ci ha mandato Johannes Buckler dal suo rifugio. Massimo Finial, intanto, che dire? Io sono assolutamente d'accordo con il misterioso Buckler, cioè la mia non era una difesa dell'evasore, contro il quale mi sono sempre battuto, perché l'evasore danneggia il proprio vicino che invece onestamente paga le tasse. Io le ho sempre pagate, la finanza può venire a controllare. Il mio discorso riguardava il fatto che le misure che si prospettavano, addirittura arrivando al... c'era anche una proposta di fare come in America, che sparisse praticamente il denaro contante, è che questo costringeva tutti noi ad avere il denaro in banca. Ora, le banche sono delle associazioni private, e non si vede perché io debba, oltretutto molto, molto a rischio adesso, e non si vede perché io debba tenere obbligatoriamente tutto il denaro in banca. E l'altra cosa è che una tracciabilità, come era stata comunque pensata sotto i 300 ai 300 euro, sì, metteva in pratica fuori legge la moneta dello Stato, che sono i famosi 500 euro. E siccome in questi ultimi tempi, diciamo, da quando è cominciata la crisi, molti cittadini onesti che non hanno né riciclato né evaso, eccetera, si erano costruiti un piccolo gruzzolo di, così dire, di sopravvivenza, prelevando ovviamente monete da biglietti da 500 euro. Questo mi pareva una misura. Beh, non è che sarebbero andati fuori legge queste 5, cioè uno andava, dava in banca e le versava. Questo non era del tutto chiaro. È una tracciabilità comunque molto bassa, fa sì anche che lo Stato possa controllarmi in tutti i miei movimenti. È questo, cioè, c'è questo limite di libertà che a lei non va, no? Sì, naturalmente, però voglio dire, con le misure a 300 questo si poneva, con una misura presa adesso dal governo 1000 mi sembra una mediazione ragionevole fra le mie obiezioni per... E quelle forse di Buckler, in ogni caso, ben chiaro che appunto quella frase, dice Buckler, doveva aggiungere per chi paga le tasse. Io dice sono lei le paga, non solo io le pago, ma dico, sono assolutamente d'accordo. Però lei ha dato anche, adesso vorrei sentire Ippolito, perché lei ha dato anche della comeinista, no, meglio detto, alcuni comeinisti a cui ha dato voce Milena Gabanelli, che si è spesa voleva 0 euro, una cosa che io, cioè una cosa da che forse neanche il, insomma, cioè che con 50 euro un cittadino normale non spende più di 50 euro per alla settimana. Ora, siccome alcuni piaceri, tipo una bottiglia di vino, bastano per fare 10 euro al giorno, mi sembrava una roba un po' esagerata. Vorrei sentire un po' come inista Roberto Ippolito, che ne pensa? È più, lei so che è più allineato sulla questione di Johannes Buckler. Sì, no, non c'è bisogno di essere come inisti, si può essere anche divertente questo. E oggi noi non scriviamo più, come dire, se non al computer, certamente usiamo la penna per gli appunti, quindi per le piccole cose, ma usiamo il computer, quindi usiamo uno strumento elettronico. Ci sconvolge questo? Assolutamente no. Così la stessa cosa per la moneta, perché la moneta elettronica dovrebbe preoccuparci non è assolutamente comprensibile, è una cosa assolutamente normale, e se ne ricaviamo tutti un beneficio ne va per tutti. Però Ippolito, c'è effettivamente, adesso io non lo so, perché poi dopo uno ecco, dice una cosa e dice ecco sei berlusconiano, sei... non me ne frega niente a me di Berlusconi o non Berlusconi, però effettivamente nel momento in cui uno fa una tracciabilità, io vado, che ne so, in un ristorante e si sa che sono andato in quel ristorante, vado in un posto e si sa che sono andato in quel posto, magari facciamo una cosa, quando uno passa il metal detector all'aeroporto, gli aprono la valigia, vedono quante camicie ha, quanta biancheria. Ma lì è una questione di sicurezza, cioè in nome della sicurezza uno rinuncia, rinuncia un po'. La garantita dalle tasse non la vogliamo mettere? Ah, e lei la mette su questo piano. Contattiamo la polizia, la magistratura, i vigili urbani, eccetera, eccetera. Allora, chi non paga le tasse, non paga la polizia, non paga la magistratura, non paga i vigili urbani, non paga i banchi di scuola, non paga l'asfalto delle strade. Lo vogliamo comprendere questo o no? Mi piace questo tipo di obiezione, dire anche quello è come io rinuncio un po' della mia privacy in aeroporto facendo vedere la mia valigia, allora dovrei rinunciare in pratica un pochino della mia privacy e sapere dove sono, perché così si impedisce una possibilità di evadere nel fisco e quindi di mettere insieme tutti quei servizi importanti, pagare la magistratura, pagare la polizia, eccetera. Allora, Massimo Fini ha capito cosa dice Roberto Ippolito, lei che ha scritto non è possibile che uno Stato si intrufoli con la tracciabilità nella mia vita privata fino a conoscere i miei acquisti, le mie predilezioni, i miei gusti, i miei vizi, è una... insomma è un sacrificio alla privacy che bisogna fare per sapere dove sei, per evitare che lei in generale vada al fisco, perché questo serve per pagare tutti i servizi, no, dello Stato. Quindi... io resto convinto che per acchiappare gli evasori ci siano altri metodi che non questo. Detto ciò, il denaro più si allontana dalla sua essenza materiale e diventa qualcosa di totalmente immateriale, favorisce qualsiasi genere di acrobazia e di truffa in realtà. Noi cittadini normali non siamo abituati a queste cose. Devo dire che contro il denaro in quanto tale, diciamo nel nostro medioevo, ma sempre, insomma, la popolazione ha avuto sempre un atteggiamento di sospetto, perché il denaro è un modo, come si può dire, è una forma che permette sì agli abili, ai furbi, di fare manovre speculative. Nel Medioevo i mercanti che facevano? Pagavano in moneta povera, cioè bronzo o cose di questo genere, realizzavano in moneta internazionale, cioè oro e argento, e così è quello che viene adesso. Il vero problema, è uno dei problemi, è che il risparmiatore è il fesso istituzionale del sistema. Perché? Perché è il povero che attraverso l'intervenzione delle banche presta al ricco perché diventi sempre più ricco. Se poi le cose vanno male... Lei ce l'ha con le banche. Infatti ha scritto subito il governo dei banchieri. Io sono uno degli elementi di questo sistema. Concludo rapidamente. Monti non è l'uomo giusto al posto giusto, è il sistema che è sbagliato, voglio dire, è un sistema che è arrivato al limite, che è cominciato dopo la rivoluzione industriale, è arrivato al limite di se stesso, davanti a un muro, e continua a pretendere di crescere e invece non può più crescere. Questo è poi il nocciolo di tutto al di là. Mi faccia sentire un'ascoltatrice che ci ha chiamato all'800 24 0024, Roberta da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Come detto, telefono da Roma. La mia è una domanda, un intervento solo per una domanda. Prevede il ministro Monti, il Presidente del Consiglio, l'annullamento di tutte le commissioni bancarie, visto che d'ora in poi saremo costretti ad utilizzare la carta di credito, il banco, ma tutto quello che abbiamo. L'ha previsto a favore dei consumatori. Questo è interessante. No, non so darle questa risposta, però Roberta, la questione è questa. Si vuole incentivare, rimanga con me, le faccio io una controdomanda, si vuole incentivare l'uso delle carte di credito, eccetera, del denaro elettronico, e tutto questo avrà un costo per le banche, no? E si pretende anche che questo venga fatto a costo zero da parte delle banche, Roberta? Le banche, che però non sono la parte più sofferente in questo momento, perché gli acquirenti dovranno già dovuto all'aumento dell'aliquota IVA, poi avranno ancora i costi della carta, del bancomat. Quello che invece non si vede, non si sente da questo governo è un abbassamento dei costi, perché noi che abbiamo dei conti correnti normalissimi, siamo delle persone normalissime, sosteniamo già dei costi annuali. Cioè, che vuol dire anche lei al sospetto che sia un po' il governo dei banchieri? È una domanda, perché secondo me è una certezza. Insomma, qui non c'è Monti a risponderle, lo so, forse domani sera la porta a porta a rispondere anche a questo. Però lo so, Roberto Ippolito, lei possiamo presumere che... Per quanto riguarda le misure annunciate ieri, non è stato dichiarato né che aumentano le commissioni bancarie sull'uso del bancomat e quindi sull'uso del contante, né che diminuiscono le commissioni sull'uso della carta di credito. Queste due cose chiaramente sarebbero utili per accompagnare questo processo di uso della moneta elettronica. Ma sono possibili, le chiedo, perché uno si dice utilizzate tutti la moneta elettronica, questo avrà costo, le camere di compensazione per le banche, la gestione... Ma perché dobbiamo sempre essere diversi dalla media del resto del mondo, dove le carte del mondo sviluppato, dove le carte di credito sono abbondantemente più usate? Forse perché ci piace ricordare che, ora faccio un po' di ironia, permettetemela, e poi vi dico qual è secondo me il vero problema: i riscatti dei sequestri di persona vengono usati con i contanti in una valigetta. È noto che le banconote dei 500 di cui si è parlato prima vengono usate soprattutto da chi fa il riciclaggio, e questo le autorità di polizia lo denunciano assolutamente da tempo. Allora il problema oggi, mi dispiace, e mi dispiace anche per il governo, manca un pezzo. Il problema non è la moneta elettronica, il problema sono i controlli conseguenti alla moneta elettronica. La necessità che finalmente si tornino a fare i controlli, perché negli ultimi due anni i controlli del fisco sono pesantemente diminuiti in generale, in particolare per alcuni tipi di controlli, per esempio gli studi di settore, drammaticamente diminuiti per il lavoro nero. Vi posso citare tutti i rapporti ufficiali: i controlli per il lavoro nero, che contiene evasione fiscale ma anche evasione di contributi e altre illegalità, sono precipitati. Intanto, ma è chiaro, mi dicono anche, mi ha chiamato Michele Anselmi, sì, collega. Salve, sono io, salve Michele. Eccoci. Una cosa velocissima che mi sentivo di poter dire ascoltando la vostra bella trasmissione è questa: io penso che invece abbia ragione la Gabanelli, va portato ben più giù dei 1000 euro, ma io penso sotto i 200 euro, perché mi sono accorto in questi ultimi anni che la mia vita è anche messa sotto scacco da persone che ci ricattano e mi ricattano nelle piccole cose. Per dirvene una sola, per farvi capire, il mio garagista, e credo che d'ora in poi lo denuncerò alla guardia di finanza e non accetterò più questo tipo di ricatto, ha portato non solo in poche settimane da 180 a 240 il prezzo per farmi tenere sia l'automobile sia il motorino, perché mi hanno rubato sia l'automobile che il motorino, ma mi ha anche imposto questo: 240, anzi 250 se voglio pagare con un assegno, 210 in nero 210 se pago in cash. Denuncio, d'ora in poi bisogna denunciarlo. Michele, no, io mi devo fermare. Michele Anselmi è il collega, scrive per il secolo XIX, insomma, ci ascolta. Lo saluto caramente, che ci ha chiamato. No, denuncialo, caro Michele, il garagista, che se ci sente ti metterà subito. Tornerà indietro. Vabbè, no, ringrazio Massimo Fini, ringrazio Roberto Ippolito. Devo finire. Andate su Facebook 24 Mattino alla nostra pagina. a domani.